Buonasera, un'altra volta siamo qui di nuovo per la sesta puntata di Animo, domenica prossima. animo, animo. Ma sai, sono hangover anche questa volta, un po' meno della settimana scorsa. Barcolli, Ma siamo barcolli, tornati di nuovo madonna. qua domenica prossima per Bravo, un'altra eccellente puntata. radiofonico, radiofonico, dobbiamo essere commerciali. Convinti. Idroponici, commerciali. Va bene, niente, quindi il nostro nuovo record, siamo riusciti a fare ben 6 puntate di fila, che significa un mese e mezzo. Ci avresti mai pensato che avremmo No, potuto fare? francamente non pensavo potessimo reggere questi ritmi. Però ancora ce ne Però stanno molte, molte da fare. Questa è la prima stagione, poi ovviamente ci sarà la ci terza, no? saranno Come altre 34 con stagioni. Mario non ci sarà la seconda, ma passeremo direttamente alla terza stagione. E abbiamo molti, molti Sì, argomenti questa settimana questa non abbiamo fatto settimana. altro che preparare cose di cui E abbiamo parlare. studiato giorno e notte per preparare la trasmissione. Veramente abbiamo dovuto togliere un sacco di argomenti perché erano troppi, troppa carne al fuoco o troppo allumi al fuoco per i vegani. E praticamente per i vegetariani, no, l'allumi è un formaggio senza caglio, un formaggio senza caglio che è suitable anche per i vegani. No, non Ma che dici? è Se con il latte. c'è il latte non può essere vegano. Ma l'allumi che cos'è, ragazzi? Chiamatemi un vegano. Allora, No, però mandiamo. è vegetariano, perché il caglio giusto, Ah, è vegetariano ok, ma quindi non non vegano. vegano. Sì. Lanciamo un sondaggio. Che cos'è l'allumi per voi? Come lo cucinate? Rispondete sulla nostra pagina Facebook e fateci sapere. Passiamo un pezzo di un artista che noi amiamo particolarmente. E questo artista è Squarepusher. Squarepusher è artista inglese che abbiamo. Gallese, Gallese, gallese. attenzione. Abbiamo avuto modo di vederlo molte volte, in molte situazioni, anche Io scabrose. l'ultima volta l'ho visto a Acme, ha suonato all'Acme Empire, praticamente sotto casa, No, ma anche più l'abbiamo bello. visto anche alla Roundhouse. L'abbiamo visto anche alla Roundhouse, vero? Un bello show epilettico con dei visual belli pesanti. E anche live con il basso, non è solamente un DJ, no? Per quelli che dicono che il DJ non suona. No, è anche un egregio bassista. Ogni volta che parliamo di quel concerto mi viene da ridere perché tu mi hai fatto notare Mai messo a che... registrare? La domanda, scusate ragazzi, controlliamo subito, altrimenti Sì, passeranno. stiamo registrando. Ok, perfetto, scusateci. Dicevi? No, mi viene sempre da ridere quando penso a quel concerto perché mi hai sempre raccontato che... La gente suona un'opera, Squarepusher, e io sto sul No, no, non telefono, era ma non era quello quello. erano i mod selector. Ah. Sì, praticamente c'era questo aneddoto. Diciamo gli aneddoti. C'erano i mod selector, sono un duo, c'era una bella fase del concerto dove stava per esplodere un bel droppone e addirittura c'era uno dei due con la bottiglia che agitava e stava per spruzzare, stappare lo spumante. E insomma, un bel momento, io mi giro e vedo Samuele scrollare il fido smartphone, Accarezzare lo schermo del lo tuo schermo, smartphone. e io gli faccio: Samuele, che cazzo fai? E lui da buon Sasotronic alzò lo sguardo completamente confuso, smarrito. Ognuno c'ha le sue distrazioni. Ma sì, ma sì. A tal proposito vi consigliamo una bella serie, però ve la consigliamo dopo. Parla appunto dell'abuso delle tecnologie. Sì, Ora intanto adesso basta parlare e mandiamo. passiamo un pezzo molto breve di Squarepusher. Si chiama Tommy B. Tommy B, che in realtà si pronuncia Tommy B. O Tommy B. Poi mettiamo un altro pezzo perché è abbastanza breve questo pezzo, Tommy. però abbastanza intenso. E ci sentiamo dopo. A fra poco. Atmosfere linciane. Sì, un po' tetre cupe. Tetre cupe. Ma, fondamentalmente, diciamo la verità, abbiamo tagliato la canzone perché ci siamo resi conto che non andava bene. Esatto, perché vogliamo una trasmissione frizzante, allegra, sbarazzina per questa primavera che sta arrivando. Per voi, signori e signore. Per voi che guardate Sanremo e vi emozionate. Actually, è la prima volta in cui non so assolutamente niente di Sanremo. Me ne compiaccio. Io ancora meno di te. Antagonista e me ne compiaccio, pagliaccio di ghiaccio. Ha vinto Fabio Volo con il suo ma che veramente? Sì, ha fatto una canzone. Non lo so, ho letto la prima pagina di Repubblica. Il trio Volo. Il triulo. E che cos'è il trio Volo? Il triulo è... ma la nuova è scusso in tizio. Non lo so, abbiamo notizie di questo trio Volo? Tre cazzoni tenori. Bene, abbiamo... il volo. Quindi non è Fabio Volo. No, stavo pensando che io praticamente ho una canzone vorrei fosse suonata al mio funerale, diciamo, mentre le esequie, no? Le mie esequie Ma in chiesa, chiesa o fuori? Ma non lo so, guarda, è più un modo di dire, anche perché diciamo non mi interessa, credo neanche a voi, non lo so. Se poi, a parte Samuele che è abbastanza religioso, ovviamente tu sei fedele, no, ai dettami della Chiesa Cattolica, quindi magari verrai... Io stamattina sono andato a messa, non ho mai visto. Ecco dov'eri. Domenica. Ecco dov'eri. No, niente, certe volte mi viene da pensare così, mentre sono sulla tavola del water, a qualche canzone che ho ascoltato, penso io, magari... Spiegami tu, mentre sei sulla tavola del water, pensi alla canzone che vuoi al tuo funerale. No, certe volte quando ascolto, no? Ascolto qualche canzone e mi immagino sulla tavola del water, penso questa potrebbe ascolti essere... Ascolti anche canzoni sulla tavola del water. Esatto, anche la tavola del water ascolta canzoni su di me. E certe volte mi viene questa da pensare... Questa conversazione sta diventando interessante. Mi viene da pensare, sì, questa starebbe bene al mio funerale. Una di queste è The Burial, a proposito, anche dal nome... alquanto simbolico, burial, che vuol dire sepoltura, sepoltura, una degna sepoltura. La canzone si chiama Forgive ed è abbastanza diversa dalle produzioni di burial solite, che sì, sono abbastanza varie, però questa è più una traccia abbastanza melodica, senza percussioni, una traccia neomelodica. È la 9, si chiama Forgive e ci sentiamo dopo. Ed era Burial con... Mi è piaciuto questo attacco. No, a me no. Un attacco veramente incredibile, incredibile. Volevamo parlare di una cosa seria. Per una volta tanto. Per una volta tanto. No, a dire il vero, la trasmissione della volta scorsa è stata abbastanza seria, perché mi hai lasciato da solo a fare il geek musicale, spiegando fatti, cose, nomi e città del fatti reggae e di Bob Marley e di Neil Young. Me lo rinfaccerai per sempre, vero? No, ora per, uno no, non perché, si può stare male, ma no, perché stanotte mi hai accorto con la coperta elettrica. È stata una grossa cortesia da parte tua. No, praticamente volevamo parlare dell'episodio accaduto a Reggio di Calabria. E sentiamo qual è l'ultima che è successa. Una trans aggredita a calci e pugni. Praticamente la signora Fabiana Scordo è stata aggredita da un ragazzo mentre si trovava all'interno di un locale del centro della città. E niente, praticamente è stata anche malmenata. La prima frase del signore è stata: mamma, questo ragazzo è un trans. Lei ovviamente si è un po' risentita, gli ha dato una pacca sulla spalla e lui ovviamente le ha sferrato un bel pugno nel petto, prima, poi un paio di calci. Insomma, ieri mi sembra c'è stato poi il presidio dell'Arcigay. Diciamo che non è solo un problema di Reggio Calabria, diciamo è un po' un problema in generale, insomma, sì. Generale, però diciamo che in Italia è un po' di più, non lo so. Cosa ne pensi? Ma la prima cosa che succede quando sento queste notizie, ovviamente, è che tipo mi cadono le braccia a terra, nel senso. Basta, cioè, a momenti basta, vorrei proprio non sentirle queste notizie, però perché cado. Non se ne può più. Però sì, la discriminazione è basata sulle scelte sessuali, è uno dei vari tipi di discriminazione più ampi, come quello sulla razza, il colore della pelle, il colore dei calzini. E tra l'altro ovviamente come il presidio dell'Arcigay, ora non ricordo dove, a Piazza De Nava, ora non ricordo bene dove c'è stato questo presidio, forse a Piazza Italia. Ovviamente ci saranno stati commenti, no, della gente che passava, no? Ma io ho visto il rocchione, Pino. Oppure altri epiteti infelici. Conosco molte persone che direbbero lo stesso, che magari lo direbbero solamente per facciata, magari sostenendo le tesi delle diversità, però poi sono i primi che magari additano come ricchioni. Sì, noi vorremmo che Reggio Calabria, il resto dell'Italia e del mondo cambiasse finalmente, che si arrivi intorno a che queste cose non succedano più. Purtroppo non è il primo episodio di questo tipo, perché 2 anni fa si è aggiunta un'aggressione a un altro ragazzo, Claudio, sempre a Reggio Calabria, ragazzo di 28 anni, che è stato aggredito fuori dal nostro locale, che se ricordo bene era... non lo ricordo. Comunque in pieno centro, vicino mi dicono dalle retrovie qua dietro. Insomma, sarebbe l'ora di smetterla. C'è veramente poco da dire. Abbiamo voluto ricordare l'episodio perché ci pare rilevante. Sì. Ovviamente questi sono gli episodi denunciati e non tutti quelli. Sì, anche a Roma, io ricordo, ci sono stati molti episodi anche più gravi in noti locali gay, anche vicino al Colosseo ricordo un episodio. Quindi non è solo un problema di Reggio Calabria o di Roma, ma è una pratica, diciamo, un bel po' diffusa. Ad esempio qui non mi è mai parso di vedere discriminazioni da tal punto di vista. Magari discriminazioni razziali, quello sì. Cioè io francamente sono stato anche vittima di sì, di discriminazioni razziali al lavoro più volte, però sì, dal punto di vista poi della sessualità un poco più tollerato e accettato. Però qui a Londra è innegabile dire che c'è un razzismo da parte di determinate persone, ovviamente non come quello che ci può essere all'infuori da Londra, che comunque è una città super multiculturale e per la maggior parte ha... Sì, ricordiamo Birmingham ad esempio, con la notizia di Fox News, la famosa città islamica di Birmingham, dove la polizia ti picchia se non vesti in maniera islamica. Esatto. Vero, eh? E se non... sì. Ma anche a Londra, dicono. Esatto, c'è la polizia che picchia, ti persegue se non sei un islamico. Mi sembra normale. Vabbè, io a questo punto stenderei un velo pietoso su questa faccenda. Hai preparato un pezzo? Con un pezzo che è... Sì, ma stai passando un po' troppo. Senti, vabbè, dai, ti piace. Stavolta è tutto mio. Rimetto Taker, un pezzo che si chiama Dial, che mi gira in testa da un paio di giorni e non posso fare a meno. Lo vuoi per il tuo funerale? No, il cazzo, non ci sarà il mio funerale, lo sai. Ok, vuoi le tue ceneri sparse? Tipo, sì, allora, lo voglio messo mentre spargono le mie ceneri. Forse quell'albero gigantesco che sta a Catona. Si vede dalla fabbrica della Mauro. Minchia, quello sì che è figo. E da quando sono piccolo, ogni volta che vado in autostrada passo da là e dico: che cazzo di figata. Quello è l'albero preferito di Alex. Di Alex Cresi. E va bene. E ci ascoltiamo. Dial, New Taker. Buon ascolto. A dopo. buonasera. Buonasera a tutti ancora da Londra. Nuovo conduttore. Nuovo conduttore che prega addirittura. Insomma, si cambia argomento, no? Si cambia scenario. Sì, è abbastanza triste l'argomento. C'è una notizia musicale riguardante musica rock indipendente, un componente di uno dei gruppi storici per quanto riguarda uno dei gruppi del cuore. Uno dei gruppi del cuore che sono gli Slinks, un gruppo americano dai USA, attivi dalla metà circa credo degli anni 80. David Paho, credo si pronunci così, chitarrista nonché membro fondatore degli Slinks, ha tentato purtroppo il suicidio. Cosa ne pensi di questa notizia? Cosa ne pensi? Non... Beh, c'è poco da pensare, insomma, notizia, cosa ne insomma penso un po' sconvolgente, degli no? Slinks. Essendo loro un gruppo che molti di noi nella giovinezza hanno ascoltato e visto come uno dei gruppi, insomma, più influenti. No, tra l'altro ma anche tuttora, perché siamo andati a vederli l'anno scorso. C'era David Paho. C'era David Paho, sì. C'era la formazione originale, abbiamo visti alla Roundhouse. Al The Forum. Ah, al Forum. Kentish Town. Gran bel concerto, tra l'altro. Sì, infatti è stato emozionante, magico. E insomma, per varie vicissitudini familiari, insomma, problemi con la moglie, divorzi, tradimenti, eccetera, eccetera, non poteva più sopportare questo l'allontanamento della moglie, tanto che ha tentato il suicidio. Credo più caldo, ha parlato di... purtroppo è triste, scatta, non so perché, però per fortuna comunque è stato salvato, speriamo che un giorno torni a fare musica, che insomma penso di sì, speriamo davvero, ma davvero scusami, notizie che ti fanno insomma pensare un po' in generale, no? Anche persone che riescono a fare una musica così bella, come dice Dario Brunori, stai citando Dario Brunori nella sua ultima canzone Kurt Cobain. Assolutamente sì, no, è schifo. Non l'hai ascoltato? Poco me. No, non diciamo, quella canzone non mi è particolarmente piaciuta. La parentesi di Michelangeliano. Ma ne posso ce dire ne frega anche un cazzo un di Dario Brunori in questo momento. No, comunque tornando a David Paho, davvero insomma una notizia scioccante. Ma speriamo tornino magari a fare nuovi album, perché sono fermi all'ultimo album, appunto, degli anni 90. Sì, solo due album. Tra l'altro Paho ha collaborato negli anni anche con i Totis, Interpol e Yes. Che fino a ieri pensavamo si dicesse Top Toys, almeno io pensavo si dicesse. Perché pensavo? No, io mi rifiuto di dire. Anyway, insomma, un artista, un musicista tutto tondo, 360 gradi, che purtroppo. Chiaramente passiamo un pezzo degli Slinks. Un pezzo. Augurando a David la pronta ripresa, soprattutto psicologica. Un pezzo che amiamo, da Spider-Man. Pietra miliare, direbbe un tarlo. Una pietra miliare, martoria, una pietra miliare, appunto, del post rock, forse il primo album, il primo vero album che ha sdoganato questo termine post rock e lo ha fatto conoscere a sempre più persone, appunto il rompere la furia dell'hardcore con la forma canzone, quella classica di strofa, ritornello strofa, per fare delle dei segmenti abbastanza emozionali, sì. Melodie, intrecci di chitarre, voce che sta un po' più defilata, sì, non dei grandissimi cantanti, assolutamente no, ma non ce n'era neanche bisogno. Esatto, forse un bravo cantante avrebbe rovinato tutto. E questa è Washer da Spiderland e ci sentiamo dopo.

Stavamo pensando di mettere qualcosa di più allegro, visto che stiamo andando in una parabola discendente. No, gran pezzo quello degli Slint, di Spiderland Washer, però volevo sì un po' spezzare e mettere qualcosa di veramente figo. Qualcosa che non abbia a che fare con i suicidi. Sì, appunto dall'album In a Tenement Yard, King Tubby che incontra Jacob Miller. King Tubby ovviamente inventore e padre assoluto della dub, di quella che chiamiamo dub e che tanto ci piace. E Jacob Miller è venuto a mancare in tenera età. Sempre per tornare ai funerali, esatto. Suicidi. Se non muoiono di morti violente o tristi, non ci piacciono. Sì, questo pezzo si chiama Dreda Dread Dub, da In a Tenement Yard. King Tubby meets Jacob Miller, e ci sentiamo dopo. Thank you. Finalmente siamo riusciti a mettere un pezzo un po' leggermente più allegro. Finalmente speriamo di recuperare. In a dread a dab dab. E allora? Sì, no, volevo fare un accenno a questo English breakfast che è tanto amato qui, allora, in terra d'Albione. Andiamo per ordine cronologico. Ieri sera siamo usciti, voi avete suonato il concerto, poi ci siamo rivisti a Dalston, nel cuore hipster di Hackney. Vabbè, un po' abbiamo sbevazzato, un po' chi meno. E poi siamo andati a dormire con la coperta elettrica Noemi mi ha detto di comprare. Ciao Noemi. Abbiamo dormito al calduccio, nella coperta elettrica, anche se tu dici che bruciava. Sì, era come se ci fosse un falò sotto il cuscino. A bonfire. Però dai, si dorme al calduccio, in caldo tefore. Finché non è avvenuto il risveglio stamattina. Esatto. Vabbè, cioè, tu ti sei alzato prima perché ti dovevi vedere la regina, vabbè. Perché l'hai un tocori. Il risveglio dopo una serata in giro a bere, cioè, voglio dire, specialmente per me che, cioè, sono andato in tre locali diversi, non so, non ricordo nemmeno bene quali. Barcollante. Dice, sto accusando l'età, perché già la seconda sei volta... sei vecchio, basta. La seconda... basta, questi già la seconda volta che in un paio di settimane che le persone mi dicono che quando bevo inizio a barcollare. Sì, quindi... è una novità, no? Prima non barcollavo, cioè. Esatto. E insomma, stamattina ci dovevamo riprendere. A questo punto dobbiamo spiegare perché gli inglesi mangiano l'English breakfast. Cos'è che spinge un essere umano a mangiare fagioli di prima mattina? Fagioli, uova, patatine fritte. Patatine fritte a colazione. Come si spiega? Noi l'abbiamo capito e ve lo spiegheremo. Praticamente vi sedete. Supponiamo che voi avete bevuto la sera prima e poi fate una colazione, qua si chiama continental, no? Colazione europea, esatto. Con il cornettino, con il cappuccino, no, magari cos'altro? Anche solo con una mela, una bananina. E dopo aver fatto colazione in questo modo vi renderete conto che... A pranzo un panino e poi non ci vedi più dalla fame. Invece... Ah, è vero, è morto solo di morti. Ne vogliamo di più. Ferrero, il presidente della Sampdoria, che sta dando spettacolo. Ma bensì Ferrero Rocher, no? Il signor Ferrero Rocher. Dai, Ilaria, vabbè, la fate dire una cosa? Posso aprire un'altra parentesi? E niente, praticamente voi aggredite il vostro stomaco con questa No, voi vi alzate, no, cercate di prenderlo in contropiede questi esatto, i postumi. Mentre lo stomaco sta facendo, oh ma che cosa, oddio, un nuovo giorno, e poi subito, pam, patate fritte, fagioli, uova. E siete a posto per frittura, ore, insomma, tutto quello che è fritto, d'ore. Tutto quello che è fritto fondamentalmente in zuppa. Esatto, in però zuppa. Dobbiamo, perché poi sembra che stiamo diffondendo una cultura, no, del mangiare male. Questo è solamente se avete fatto dei bagordi, ovviamente. Poi durante la settimana vi consigliamo di mangiare la lattughina e di andare in palestra e a correre. In palestra, e beh, sappiamo già perché le persone vanno in palestra, non di certo per la condizione fisica, ma per altri motivi, rotondi motivi. No, non sono un amante delle palestre, francamente. Non lo so. Preferisco, diciamo, un'attività aerobica. Non è vero niente, perché non faccio alcun tipo di attività fisica, quindi non me ne frega niente. No, quindi. E quindi ci siamo fatti la nostra super colazione stamattina, però sì, vegetariana. Provate senza... anche voi, sì, vegetariano, però abbastanza pesante. Dopodiché siamo andati a fare una passeggiata in mezzo ai mostri di cemento, come dice la nuova canzone degli Assalti Frontali, sul lago di Largo Preneste a Roma, del quale parleremo poi veramente in un'altra puntata, perché veramente merita. Sì, un quartiere surreale, si chiama Canary Wharf, è praticamente una accozzaglia di palazzoni giganteschi, di grattacieli. Sì, la nuova City, perché come abbiamo visto al Museum of Docklands è stato proprio un quartiere creato artificialmente, sì, dove prima c'era l'erba, ora c'è... appunto il palazzo della HSBC, della sì, Barclays, insomma tutte le banche tutte più le grosse del mondo hanno Swiss. Un grattacielo lì, sì, non si vede il cielo, solamente se guardi proprio dritto in la polizia che ha le armi, a differenza del resto della polizia inglese. È vero. Non si può fumare all'aria aperta. Non c'è una carta a terra. Esatto. Che potrebbe essere anche carino. E non ci sono nemmeno appartamenti. La gente non vive lì. Praticamente va solo a lavorare in Un non luogo. E niente, praticamente hanno distrutto tutto quello che rappresentavano le Docklands, ossia questi piccoli porti. Creati appunto. Insomma, piccolo non è che il porto di Londra fosse piccolo, anzi. No, vabbè, tutte le Docklands, i docks, sì. Sono, diciamo, dei mini porti dove appunto, ad esempio, partivano le navi per andare in Africa a prendere gli schiavi e poi a portarli nei Caraibi. Hanno rovinato questo bellissimo ecosistema, esatto. c'era, di c'era, navi che andavano a prendere gli schiavi in c'era, Africa. Davano lavoro a tanti africani in questa maniera, è stato tutto distrutto. Ora... Un po' riflette il modo inglese di fare le cose, no? Prima c'era questo porto che è poi caduto in disuso, abbandonato. Un giorno si alzano negli anni 70 e dicono: no, ma sai che ci costruisco 15 grattacieli? Sì. E l'hanno fatto. Perché dovevano appunto alleggerire il peso della City, che appunto sì. Zona principale dei finanziari a Londra. E ne hanno creata un'altra. E ne hanno creato un'altra con grattacieli ancora più alti. Esatto, costringendo la gente ad andarsene. Principalmente perché tu sei stato al museo delle Docklands e sì. Lì hai letto la storia. Sì, e la maggior parte delle cose si riferiva appunto alla comunità che ha fatto centinaia di proteste proprio per questo piano veramente suicida. Poi un'altra cosa curiosa di Canary Wharf, di questa zona, è che essendoci tutte le banche, ogni banca ha il suo grattacielo, come ho già detto, la prima cosa che viene in mente sono gli scandali che ci sono a cadenza periodica su ognuna di queste banche, finiscono sui giornali, no? Come anche quest'ultimo della HSBC. Sì, di questa della settimana scorsa, no? Questa, la seconda banca del mondo che aiutava i super ricchi del mondo a nascondere i loro soldi nella loro filiale svizzera. Beh, mi sembra giusto, perché un servizio per... È un servizio che con proprio facevano consigli, consulenza, cioè, no? Cioè, soldi. Se hai tanti soldi devi sapere dove nasconderli, no? E ovviamente un servizio efficiente, sì, lo dava volentieri ai loro clienti. Cioè, tra voglio dire, poi scoperto... aspetta, poi, cioè, come molti hanno detto, non è che se tu hai un conto in banca in Svizzera sei automaticamente un criminale, no? Diciamo sì, che oppure non se... sei, no, no, non sei un criminale, però voglio dire, se, esatto, se hai i soldi o hai la sede tu sei della tua società a Monte Carlo, se tu sei un cittadino onesto che vuole pagare le tasse, ma che vuoi? Non mi... il servizio delle banche inglesi non mi va bene, vorrei metterli in Svizzera i soldi, non è che... cioè... Esatto, poi hanno anche una cioccolata veramente deliziosa. E, sì, tra l'altro... c'è l'experience quando entro nella banca svizzera, è diversa dalla grigia e noiosa banca inglese. Esatto. Poi là vado in fila alla filiale dell'HSBC di Losanna in Svizzera, no? C'è la fila, come ha detto Crozza, e vedo Tina Turner dietro di me, poi... come dice Razzi, la mia Svizzera, la Svizzera è tutto veramente molto pulito, molto... 3 milioni e 3. No, tra l'altro abbiamo scoperto che la HSBC è la seconda banca al mondo, mentre la prima e la terza sono cinesi, sono delle banche cinesi, non sono né JP Morgan né Goldman Sachs, che tra l'altro ho appena visto ha rilasciato un prestito di 175 milioni di euro, penso, alla Roma Calcio e a James Pallotta, si chiama proprio Pallotta di nome, che verranno restituiti appunto entro il 2020. Insomma, belle cose, no? Sta andando bene comunque finanziariamente il mondo. Non ci sono assolutamente, diciamo, le condizioni perché si ripetano il disastro del 2008, vero? No, assolutamente. Abbiamo scampato il pericolo. Il capitalismo è un sistema efficientissimo. Che sta dimostrando di tenere. Soprattutto dopo quell'episodio del fallimento della Lehman Brothers, ci sono state delle dure leggi per contrastare appunto la speculazione delle banche. Ed è per questo che scoppia un mega scandalo ogni 3-4 mesi. Esatto. Comunque, a parte gli scherzi, io penso veramente che fra 1 o 2 anni le leggi... no, infatti, eravamo infatti ironici a tal punto. No, io penso che, non lo so, fra... non essendo un economo, e né un economista, e né un economisti, né un economato, ma io sto l'economato. No, penso veramente che è probabile, possibile in 1 o 2 anni un tracollo simile, se non peggiore, di quello del 2008. E quindi, diciamo, con questi foschi presagi, mettiamo una canzone dei Ronin. Che non c'entra assolutamente nulla con tutto quello di cui abbiamo parlato. Vabbè, però è una bella cover del sì. Galeone. Vabbè, c'è un motivo in realtà. C'è un motivo per cui sì, ne parliamo. Qui a Londra. A Shoreditch martedì al Power Lunches. Addosso, vabbè, non importa. E noi andiamo a vederceli. E se per caso vi trovate a passare da Londra, vi invitiamo pure voi a venire a vedervi i Ronin. I Ronin sono il gruppo di Bruno Dorella. Esatto, Ovo. Grande musicista italiano, dell'underground italiano. E niente, beccatevi questa versione del Galeone e ci sentiamo dopo. Ci vediamo insieme a questo video. Ce la vediamo, poco. Vedetelo. Ascolta ogni sia pietosa cotrice, l'onda spumosa e ria, ma sorga Sicuramente questa passerà alla storia per essere la puntata più cupa e triste. Ma possiamo fare di meglio e possiamo mettere possiamo canzoni deprimervi ancora più cupe. E deprimervi ancora di più. Esatto. Tra l'altro, stavamo cercando di mettere una canzone. E abbiamo, diciamo, la playlist qui di Sasotronic. E dai, è questo Sasotronic. Ormai sei Sasotronic oppure Ei Sam. No, appunto per dare un colpo di allegria e di frizzantezza a questa trasmissione, stavo pensando ad un Jimmy Cliff, un Reggae Night, oppure un Jacob Mindler e Inner Cycle. Ma alla fine andremo a mettere un pezzo di appunto di legno. Questo la dice lunga su la dice lunga su quanto impegno abbiamo messo a preparare questa puntata. Metti un pezzo di legno, Stefano Legno. È il nuovo delle proposte a Sanremo. Dai. No, magari possiamo trovare. Allora, lo sai che facciamo? Cerchiamo su YouTube questo Il Volo. E lo mettiamo, ma allora io Sanremo. No, io francamente non so chi diavolo sia, no? Però lo scopriamo insieme a voi. Il famoso trio di tenori. Lo mettiamo e magari, non lo so, magari fanno cagare. Qual è no, la canzone? No, ti prego, già dall'immagine. Qual è la canzone? No, ragazzi, non si può scoprire. No, Sanremo no. Grande no. Amore. Ciccio Svelo che cosa avrebbe detto? Mettiamo Sanremo su transizione di fase. Ci prende a cacci in culo. Ma serio sta parlando? No. Va bene, togliamo Il Volo e torniamo. Mettiamo invece. Possiamo leggere le citazioni di Fabio Volo. Appunto ne ho una qui. Dice: l'amore è una cosa volatile. Prendilo in tempo, altrimenti le inzaghette. E un'altra ancora più famosa che però ho perso perché ho lavato i jeans a 90 gradi, si è completamente distrutta. Vuoi mettere i Beatles? Ma sì. Posso mettere un pezzo d'altro. Dei Beatles? Ma lo fai dire una cosa, Ilaria? Me lo fai mettere un pezzo dei Beatles, Ilaria? Che pezzo dei Beatles vuoi mettere? Voglio mettere dal White Album Sexy Sadie. Ah, ricordiamo. E tu mi puoi ricordare un aneddoto su questa canzone? Perché sì. Chi era Sexy Sadie? Sexy Sadie era Sadie Atkinson. Era... E chi era Sadie Atkinson? Era una ragazza tranquilla che ha fatto solamente una mattanza insieme a Charles Manson. Ma va, quella nella villa di Roman Polanski. Esatto. Ti piace Roman Polanski? No. A te? Tra l'altro Roman Polanski è un criminale, cioè è un criminale e anche uno stupratore di primo livello. Questo e adesso, dopo i funerali, i suicidi e le morti, adesso entriamo nel territorio sconfinato dello stupro. Esatto, ha stuprato, ha sturato molte... No, nel senso che questo fa abbastanza riflettere sulla differenza tra, no, arte e... individuo. Ad esempio, io so che De André, diciamo, aveva un carattere alquanto irritante e indisponente, era abbastanza alle volte borioso. È una cosa che è capita un po' comunemente, no? Quando magari tu, forse... quando ti piace un cantautore, un artista, no? Automaticamente inizi, pensi, minchia che bella persona che deve essere. Invece poi, vabbè, quando, vai, quando vai a documentarti... Esatto, sul... vedi che ha stuprato 7 bambini, però dici, ma che bella che era quella canzone. No, come ad esempio Gabber. Gabber praticamente... ha una discografia incredibile di pezzi veramente stupendi, però poi alla fine della sua vita si è sposato con, ora non mi ricordo il nome esatto, ma un esponente di Forza Italia. quindi questo la dice abbastanza lunga sulla discrepanza tra magari... Poi è ovvio che ci può essere solo arte, ma nel caso di Gabber, ad esempio, era arte e politica strettamente intrecciata. Un altro esempio che mi viene in mente è i Queens of the Stone Age, una band che mi piace molto. Poi vai a documentarti su Josh Homme, il cantante, chitarrista. Lui ha, ha ucciso... ha stuprato... Ha ucciso coso, come si chiama? Giovanni Paolo II. Sì, stava lui. Ha ucciso con la chitarra. E l'ha sfasciata in testa, no, è salito alle cronache per questo... È un super macio, attacca brighe, vota a destra, super di destra. Sì. E qua ne ho scioccato un altro. Sì, è un conservatore, come si chiamano? Repubblicani in America. Ma che te ne frega di questi colori qua, alla fine, se uno vuole votare a destra, se uno vuole picchiare, non lo so, i ragazzini, però... in nome del fascismo. E non poi sono cose... scrive le canzoni più belle degli ultimi anni, sì, però. Ma sono qui squiglie, sono qui squiglie, non è importante, l'importante sono altre cose, non c'entra. Quindi questa canzone Sexy Sadie dei Beatles la dedichiamo... Paul McCartney ha scritto questa canzone dedicandola a Sadie Atkinson. E che ha fatto? Che era una delle, sì, di quelle che è andata... A, insieme, no, Charles Manson innanzitutto non c'era, perché ovviamente era uno dritto. Lui era il mandante. Esatto, se ne stava bello a casa e diceva, sì sì andate, con la sua con la sua svastica tatuata sulla fronte. Esatto, uccidete tutti. E insieme a Charlie Tex Watson, tra l'altro aveva una bella faccia da, da malato, andate a vedervi le fotine, no, i santini, no, no, di queste persone. Stiamo passando l'immagine in questo momento, la potete esatto, vedere. Esatto, qui. Qui. Esattamente, ecco, qui. Esattamente. Qua dove ho messo il dito, la potete vedere qui. Praticamente sì, sono irrotti nella casa di Polanski, di Sharon Tate, sua moglie, all'epoca, ovviamente hanno ucciso lei e altri astanti random, un po' come avrebbe voluto fare il protagonista di Al ballo mascherato, di Storia di un impiegato di De André, che magari avremo modo di ascoltare in un'altra puntata. E questo vabbè, è... Li abbiamo riempiti di parole e di discorsi... E di scorregge che però non potete sentire, purtroppo. E di digressioni. Inutili, tipo... Sexy Sadie, Beatles, restate con noi, ragazzi. White Album. Ciao. Sexy Sadie, what have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy Sadie, oh, what have you done? Sexy Sadie, you broke the rules. Sexy Sadie, the greatest of them all. lady, she's the latest and the greatest of them all. Eccoci qua di nuovo. E adesso parliamo di un gruppo con cui avete suonato ieri sera, se non sbaglio. Sì, loro sono che i... bello dire se non sbaglio. Se non sbaglio. Ah, eri tu. Sì, abbiamo suonato in questo gruppo che ha devastato tutto. Dove avete suonato? Al Open Hank, locale dove hanno suonato anche i Joy Division. Veramente Joy Division non è nulla. E questi Batteryman, un duo basso e batteria, hanno devastato perché insomma, è un genere abbastanza barbaro e pesante sull'attitudine, diciamo, non sonorità di The Finch, Blanco, Morco, comunque band dove c'è un basso, due bassi e batteria senza chitarra, e i decibel sono alquanto elevati. E, sì, sono di Londra, tra l'altro bassista vestito in giacca e cravatta e occhiali, bravo, un super nerd, penso di un pazzo che ha dato adito alle sue, ai suoi sguardi da psicopatico e cantato da punk bastardo, molto molto positivi, molto in due basso e batteria, un basso cinghialesco sferragliante, sì, il batterista è veramente un animale, ma al posto di parlare delle loro fattezze, di quello che hanno fatto, mettiamo un pezzo dando le ciance. Sasotronic, Hey Sam, si chiama il pezzo Ends of the Land, e loro sono i Batteryman, e ci sentiamo dopo. We'll be right back. Batteryman, però passiamo a un pezzo della compilation Limitazione. Se ne vuoi parlare, tu sei fan. No, ma veramente sei tu. No, penso che gli Stereo, ma perché ora siamo, diciamo, un po' presi in contropiede, visto che stiamo andando dalla Z alla A. Praticamente penso gli Stereo Math siano un duo hip hop, di Nicola Casile, penso. Il pezzo si chiama Domani si parte, perché io il pezzo che conosco, il pezzo loro che conosco non è questo, però penso si tratti dello stesso progetto. Si chiama Domani si parte, loro sono gli Stereomat, e ci sentiamo dopo. Vendi le tue cose buone, vieni con me. Vendi le tue cose buone, vieni con me. Vendi le tue cose buone, vieni con me. Con me. Domani si parte, domani si va. A bordo di un treno che va lontano dalla mia città. Yeah. Sali sul treno, vieni con me. La destinazione la troverai dentro di te. Che rubi coraggio ed uccidi la fantasia, ma stavolta non puoi fermarci, siamo pronti per andarcene via, senza rimpianti, e lo sai in un futuro possibile, noi seguiremo bandiere di sole, la loro scia, generazione di ribelli muti, abituati al branco come rubi, mentre quelli se ne stanno seduti, non ce ne andiamo, bye bye, tanti saluti. Domani si parte, domani si va, a bordo di un treno che va lontano dalla mia città. Yeah. Sali sul treno, vieni con me, la destinazione la troverai dentro di te. E non lasceremo tracce sull'asfalto e negli archivi, e non riconosceranno nostre facce da fuggitivi. Siamo fuori dalle spiagge, dalle polveri sottili, con lo sguardo all'infinito e di palloni nei cortili. Mamma, vado a fare un giro, è finito il mio ritiro, sto alla larga dal vampiro, vuole pure il mio respiro. Questo posto non è nostro, questo posto non è nostro. Ecco, ritorniamo qua e facciamo un pull-up. Pull-up, sai cos'è un pull-up? La prima volta che sento questa parola è quando praticamente i DJ, soprattutto nelle dancehall, quando un pezzo è così infuocato, proprio lo devono cantare tutti, prendono e gridano pull-up, pull-up, e prendono e alzano pull-up the needle, l'ago della puntina del disco, e lo rimettono. Fanno lo volete ancora? Noi lo facciamo perché praticamente a un certo punto ci siamo accorti che i Batteryman stavano andando ancora sotto al pezzo degli Stereomat. Quindi c'erano due pezzi che andavano contemporaneamente, tra l'altro stavo generando confusione. Sì, stavo per commentare: ah, senti che bella chitarra sferragliante che ha. Esatto. Però c'erano queste due canzoni sovrapposte, quindi la rimettiamo, stoppando ovviamente i Batteryman. Rimettiamo il pezzo degli Stereomat, Domani si parte. Scusate se abbiamo fatto cagare. Se abbiamo fatto questo pastrocchio, e a dopo. Prendi le tue cose, muoi, vieni con me. Domani si parte, domani si va, a bordo di un treno che va lontano dalla mia città. Yeah. Sali sul treno e vieni con me, la destinazione la troverai dentro di te. Notte che rubi coraggio ed uccidi la fantasia, stavolta non puoi fermarci, siamo pronti per andarcene via, senza rimpianti, e lo sai, in un futuro possibile noi seguiremo bandiere di sole, la loro scia generazione di ribelli muti abituati al branco come lupi, mentre quelli se ne stanno seduti, noi ce ne andiamo, bye bye, tanti saluti. Domani si parte, domani si va a bordo di un treno che va lontano dalla mia città, yeah. Sali sul treno e vieni con me, la destinazione la troverai dentro di te. E non lasceremo tracce sull'asfalto e negli archivi, e non riconosceranno le nostre facce da fuggitivi. Siamo fuori dalle spiagge, dalle polveri sottili, con lo sguardo all'infinito ed i palloni nei cortili. Mamma, vado a fare un giro, è finito il mio ritiro, sto alla larga dal vampiro, vuole pure il mio respiro. Questo posto non è il nostro, questo posto non è il nostro. Mettono le mani nelle tasche e nei cassetti, tu sei ancora qui a pensare ma cosa aspetti, questo non è il tempo delle idee che fanno incendi, conta solo quello che metti e come spendi, pure la banalità si fa sofisticata, pensa come questa realtà è precipitata, prima c'era la politica per la rivoluzione, ora scegli la politica e ti fai una posizione, sali sul vagone, prendi posizione, a volte cambia tutto grazie all'intuizione, questo posto non ci merita, ok, andiamo altrove, abbattiamo il muro come nell'89 per ritrovare il senso della contrapposizione, fatto a pezzi mattone per mattone, fuggiremo dal ricatto dell'omologazione di un pensiero dominante che ha sedato una generazione. Domani si parte, domani si va a bordo di un treno che va lontano dalla mia città, yeah. Sali sul treno, vieni con me, la destinazione la troverai di te. Prendi le tue cose e muovi, vieni con me. Prendi le tue cose e muovi, vieni con me. Prendi le tue cose e muovi, vieni con me. Prendi le tue cose e muovi, vieni con me. Prendi le tue cose e muovi, vieni con me. Prendi le tue cose e muovi, vieni con me. Come on, Calafro. Parla, dai, addio, siamo in diretta. Sì, siamo in diretta, ragazzi. No, non vogliamo parlare di nessun morto, di nessun suicidio. Però, vi volevamo lasciare con questo pezzo di John Lennon, che tra l'altro stanno ancora di scegliere. Io direi un bel Instant Karma. È morto ammazzato in maniera violenta. E tra l'altro è stato addirittura pochi mesi fa l'anniversario della sua morte, non mi ricordate. Vabbè, stiamo dicendo un po' di cazzate. E sì, questo pezzo si chiama... non è l'unico Beatles a essere morto. Esatto. Perché ne sono morti altri. E ne moriranno. Perché Paul McCartney e Ringo Starr io li vedo non tanto. Non li vedo molto in forma. Ovviamente dedicheremo una puntata alle morti di John Lennon e Yoko Ono. Il pezzo si chiama Instant Karma e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di domenica prossima. Ti sei incantato. E buone malattie a tutti. Buone malattie. No, speriamo di avere qualche ospite. Chiameremo Giuliano Ferrara, il direttore del Foglio, che si è appunto dimesso proprio qualche mese fa. Ricorreva l'anniversario delle sue dimissioni dal Foglio. Potete ricordarlo. E chiameremo anche Gad Lerner, ci ha dato la sua disponibilità appunto a parte partecipare a domenica prossima, lì mi ha spiegato un po' il progetto, diciamo, con dei fondi abbastanza limitati. Ma la vera novità è che inviteremo anche, che ci ha dato la disponibilità, Enrico Mentana per una ultramaratona elettorale, sì, di 36 ore. 36 ore, appunto, sulle elezioni in Ghana e Gabon, che seguiremo qui dai nostri studi. Grazie a Mariella Partalle per le sue preziose ricette di cucina, l'avremo anche la settimana prossima con noi. Grazie Mariella. Grazie. E adesso vi lasciamo con questo splendido video, questo direttamente splendido sui video vostri schermi. Instant Karma. E ci sentiamo e ci vediamo e ci e se sentimo, io non t'ho visto, t'ho sentito, come diceva appunto Giuliano Santoro. Sentiamo domenica prossima, sempre se campiamo, perché altrimenti sarete costretti voi a parlare della nostra morte. E dovete mettere la canzone che Nick ha scelto, esatto, per il suo funerale. Ricordatevela. E ci sentiamo domenica prossima. E ciao! Knock you right on the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. What in the world are you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth you trying to do? It's up to you. Yeah, you. It's just karma's gonna get you. You're right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. Stop.